Era la seconda edizione di Italia in Controluce. Vi ricordo radio24.it è il nostro sito dove potete scaricare in podcast o ascoltare più semplicemente tutte le puntate. Abbiamo il gruppo di Facebook Radio 24 Italia in Controluce, poi la mail controluce@radio24.it. La mia voce torna domani alle 6:30 naturalmente su Radio 24.